Il giorno seguente, Oloferne diede ordine a tutto il suo esercito e a tutta la moltitudine di coloro che si erano aggiunti a lui come alleati di muovere il campo contro Betulia, occupare le vie d'accesso della montagna e far la guerra contro gli israeliti. In quel giorno, quindi, ogni uomo valido tra loro si mise in marcia. L'esercito di quei guerrieri era di 170.000 fanti e di 12.000 cavalieri, senza contare gli addetti ai servizi e altri uomini che erano con loro a piedi, in numero immenso. Si accamparono nella vallata vicino a Betulia presso la sorgente, estendendosi in profondità sopra Dotain fino a Belbain e in lunghezza da Betulia fino a Chiamon, situata di rimpetto a Esdrelon. Quando videro la moltitudine di costoro, gli israeliti rimasero profondamente turbati e si dicevano l'un l'altro: ora costoro brucheranno la superficie di tutto il paese e né i monti più alti, né le valli o le colline potranno resistere al loro peso. Ognuno prese le proprie armi e dopo aver acceso fuochi sulle torri, stettero a fare la guardia per tutta quella notte. Il secondo giorno, Oloferne fece uscire tutta la sua cavalleria alla vista degli israeliti che erano in Betulia. Ispezionò le vie d'accesso alla loro città e, ricercate le sorgenti d'acqua, le occupò, collocandovi guarnigioni di uomini armati. Quindi egli ritornò al suo esercito. Allora gli si accostarono tutti i capi dei figli di Esaù, tutti i comandanti del popolo di Moab e gli strateghi della costa, e gli dissero: «Voglia ascoltare il nostro Signore una parola per evitare qualunque guaio al tuo esercito. Questo popolo degli israeliti non fa affidamento tanto sulle proprie lance quanto sull'altezza dei monti sui quali essi abitano. Certo non è facile scalare le creste dei loro monti. Pertanto, o Signore, non combattere contro di loro come si usa in una battaglia ordinata, così nessun uomo del tuo esercito cadrà. Rimani nel tuo accampamento e fa ivi rimanere ogni uomo del tuo esercito. I tuoi servitori si impadroniscano della sorgente d'acqua che scaturisce alla radice del monte, perché di là attingono acqua tutti gli abitanti di Betulia. La sete li consumerà e consegneranno la loro città. Noi e la nostra gente saliremo sulle vicine creste dei monti, ci accamperemo su di esse per sorvegliare che nessun uomo esca dalla città. Saranno consunti dalla fame, loro, le loro mogli e i loro figli, e prima che la spada piombi su di loro, giaceranno distesi sulle piazze della loro dimora. Così darai loro un duro contraccambio, perché si sono ribellati e non sono voluti uscire pacificamente incontro alla tua persona». Il loro discorso piacque ad Oloferne ed a tutti i suoi ministri, e perciò egli diede ordine di fare come avevano proposto. Si mosse un distaccamento di Moabiti e 5.000 assiri con essi si accamparono nella vallata, occupando i punti d'acqua e le sorgenti degli israeliti. Dal canto loro, i figli di Esaù e gli Ammoniti salirono e si accamparono sulla montagna di fronte a Dotain, donde inviarono parte dei loro uomini verso meridione e a oriente di fronte a Egrebel, situata vicino a Cus, sul torrente Mokmur. Il resto dell'esercito degli Assiri si accampò nella pianura, ricoprendo tutta la superficie del paese. Le tende e i loro equipaggiamenti, essendo molto ingenti, formavano un accampamento di grande mole. Gli israeliti allora elevarono grida al Signore, loro Dio, con l'animo scoraggiato, giacché tutti i loro nemici li avevano circondati e non era possibile evadere di mezzo a loro. Il campo assiro al completo, fanti, carri e cavalli, proseguì l'accerchiamento per 34 giorni e a tutti gli abitanti di Betulia si esaurì ogni recipiente d'acqua. Le cisterne si vuotarono e non ebbero acqua da bere a sazietà neppure per un giorno, perché veniva loro distribuita in misura razionata. I loro fanciulli si accasciavano, le donne e i giovani venivano meno per la sete e cadevano nelle piazze della città e agli sbocchi delle porte, non rimanendo in essi alcuna energia. Allora tutto il popolo si radunò intorno a Ozia e ai capi della città. Giovani, donne e bambini e gridarono ad alta voce, dicendo al cospetto di tutti gli anziani: «Che Dio sia giudice tra voi e noi, perché ci avete fatto un grave torto, non avendo svolto trattative di pace con gli Assiri. Ora non c'è nessuno che ci possa aiutare, perché Dio ci ha venduto nelle loro mani per essere abbattuti davanti a loro dalla sete e da grande rovina. Ormai chiamateli e consegnate la città intera alla gente di Oloferne e a tutto il suo esercito perché la saccheggino. È meglio per noi diventare loro preda. Saremo certo loro schiavi, ma almeno rimarremo vivi e non vedremo con i nostri occhi la morte dei nostri bambini, né le donne e i figli nostri esalare l'anima. Vi scongiuriamo per il cielo e la terra, per il nostro Dio e Signore dei nostri padri, che ci punisce secondo i nostri peccati e le colpe dei nostri padri, di agire oggi stesso come vi abbiamo detto». Vi fu allora un gran pianto generale di tutti in mezzo all'assemblea e a gran voce gridarono al Signore Dio. Ozia disse loro: «Coraggio, fratelli, resistiamo ancora 5 giorni, durante i quali il Signore, nostro Dio, ci userà di nuovo misericordia. Certo, Egli non ci abbandonerà fino all'ultimo. Se passati questi giorni non ci giungerà alcun aiuto, farò come avete proposto». Così rimandò il popolo, ciascuno nel suo quartiere. Gli uomini ritornarono sulle mura e sulle torri della città, mentre rimandò le donne e i bambini alle loro case. Ma nella città si stava in grande costernazione.